Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan svegliò Planchet e gli ordinò di andare ad aprire. Che dalla frase D'Artagnan svegliò Planchet il lettore non presuma che fosse notte o che il giorno non fosse ancora spuntato. No, erano già scoccate le 4. 2 ore prima Planchet era venuto a chiedere il pranzo al suo padrone, il quale gli aveva risposto con il proverbio «Chi dorme pranza». E Planchet pranzava dormendo. Fu introdotto un tale dalla faccia sempliciotta che d'aspetto sembrava un borghese. D'Artagnan congedò Planchet e fece sedere il visitatore. Seguì un attimo di silenzio durante il quale i due si guardarono come per fare una conoscenza preliminare. Dopodiché D'Artagnan fece un cenno a significare che era lì in ascolto. «Ho sentito parlare di Monsieur D'Artagnan come di un giovane coraggiosissimo», cominciò il borghese, «e la reputazione di cui egli gode meritatamente mi ha convinto a confidargli un segreto». «Parlate, signore, parlate», disse D'Artagnan, il quale distinto fiutò qualcosa di vantaggioso. Il borghese fece un'altra pausa e continuò. «Mia moglie è una cucitrice della regina, signore, e non manca di serietà né di bellezza. Me l'hanno fatta sposare circa 3 anni fa, sebbene non avesse che una piccola dote, perché Monsieur de la Porte, il maggiordomo della regina, è il suo padrino e la protegge». «Allora, signore?» chiese D'Artagnan. «Allora», riprese il borghese, «allora, signore, mia moglie è stata rapita ieri mattina mentre usciva dalla sua stanza di lavoro». «Ma volete che ve lo dica, signore?» continuò il borghese. «Io sono convinto che in tutto questo c'è più politica che amore». «Più politica che amore», ripeté D'Artagnan con aria pensosa. «E cosa sospettate?» «Io credo che non sia per i suoi amori che mia moglie è stata arrestata, ma per quelli di una dama di rango molto superiore al suo». «Ah, ah! Forse per via degli amori di Madame de Bois Tracy?» fece D'Artagnan, che di fronte al borghese volle darsi l'aria di essere al corrente delle faccende della corte. «Più in su, molto più in su, della...» D'Artagnan si fermò. «Sì, signore», rispose così piano che a malapena lo si poté udire, lo spaurito borghese. «E con chi? Con chi volete che sia, se non con il duca di...» «Il duca di...» «Sì, signore», rispose il borghese con un tono di voce ancora più soffocato. «Ma voi come sapete tutte queste cose?» «E le so da mia moglie, signore, da mia moglie in persona. E lei lo sa da chi?» «Da Monsieur de la Porte. Non vi ho detto che era la figlioccia di Monsieur de la Porte, l'uomo di fiducia della regina? Bene, Monsieur de la Porte l'aveva messa in casa di Sua Maestà perché la nostra povera regina avesse perlomeno qualcuno di cui fidarsi, trascurata com'è dal re, spiata com'è dal cardinale, tradita com'è da tutti». «Ah, la cosa va chiarendosi», fece D'Artagnan. «Dunque la regina crede...» «Cosa crede la regina?» «Crede che abbiano scritto al duca di Buckingham a suo nome». «A nome della regina?» «Sì, per farlo venire a Parigi e una volta qui attirarlo in qualche tranello». «Diavolo! Ma vostra moglie, caro signore, che cosa c'entra in tutto ciò?» «Si conosce l'attaccamento di mia moglie alla regina e la si volle allontanare dalla sua padrona, oppure spaventarla per carpirle i segreti di sua maestà, corromperla per servirsi di lei come una spia. «Probabile», disse D'Artagnan, «ma quello che l'ha rapita lo conoscete?» «Credo di conoscerlo». «E il suo nome?» «Non lo so, ma l'avete veduto?» «Sì, me l'ha indicato una volta mia moglie». «Ha un qualche segno da cui lo si possa riconoscere?» «Sì, certo, è un signore d'aspetto altero, bruno di capelli, di carnagione olivastra, con lo sguardo penetrante, i denti bianchi e una cicatrice alla tempia». «Una cicatrice alla tempia!» esclamò D'Artagnan. «I denti bianchi, lo sguardo penetrante, di carnagione olivastra, d'aspetto altero, è il mio uomo di Meung». «È il vostro uomo, voi dite?» «Sì, sì, ma questo non conta, no, sbaglio, la semplifica molto, anzi, se il vostro uomo è il mio, farò due vendette in una volta, ecco tutto. Ma dove trovarlo?» «Non ne so niente». «Non avete nessuna indicazione di dove abiti?» «Nessuna». «Un giorno che riaccompagnavo mia moglie al Louvre, lui ne usciva mentre lei vi entrava e me l'ha mostrato». «Diavolo, diavolo», mormorò D'Artagnan, «tutto ciò è assai vago. Da chi avete saputo del rapimento di vostra moglie? Da Monsieur de la Porte. E voi, da parte vostra, non avete saputo niente?» «Sì, ho ricevuto...» «Cosa?» «Ma non so se commetto una grossa imprudenza». «E dagli! Pure vi farò notare che è un po' tardi per tornare indietro. Difatti non torno indietro, santo cielo!» esclamò il borghese imprecando per montarsi un po'. «D'altronde, parola di Bonacieux...» «Vi chiamate Bonacieux?» lo interruppe D'Artagnan. «Sì, è il mio nome». «Dunque, stavate dicendo parola di Bonacieux. Scusate se vi ho interrotto, ma mi pareva un nome che conoscevo». «Può darsi, signore. Sono il vostro padron di casa». «Ah!» fece D'Artagnan facendo per alzarsi e salutando. «Siete il mio padron di casa?» «Sì, signore, sì». «E già che siete qui da 3 mesi e certamente distratto dai vostri importanti impegni, avete dimenticato di pagarmi la pigione, già che dico non vi ho seccato un solo istante, ho pensato che avreste apprezzato la mia delicatezza». «Ma certo! Mio caro Monsieur Bonacieux», ribatté D'Artagnan, «credetemi, vi sono riconoscentissimo per il vostro comportamento e, come vi ho detto, se posso esservi utile in qualcosa...» Il borghese trasse di tasca un foglio e lo porse a D'Artagnan. «Non cercate vostra moglie», lesse D'Artagnan. «Vi sarà restituita quando non avremo più bisogno di lei. Se fate un solo passo per ritrovarla, siete perduto». «Parla chiaro», continuò D'Artagnan. «Ma dopo tutto non è che una minaccia». «Sì, ma mi spaventa. Io, signore, non sono affatto uno spadaccino e ho paura della Bastiglia». Fece D'Artagnan. «Non è che la Bastiglia a me garbi più di voi. Se si trattasse solo di qualche sciabolata, passi. Pure, signore, avevo fatto assegnamento su di voi in questa circostanza». «Sì?» «Vedendovi continuamente circondato da moschettieri dall'aria marziale e riconosciutili per quelli di Monsieur de Tréville, nemici quindi del cardinale, avevo pensato che voi e i vostri amici, rendendo giustizia alla nostra povera regina, sareste stati felicissimi di giocare un brutto tiro a sua eminenza». «Certamente». «E poi avevo pensato che, dovendomi 3 mesi di pigione di cui non vi ho mai parlato...» «Sì, sì. Mi avete già spiegato questa motivazione e la trovo eccellente. Aggiungo inoltre che finché mi farete l'onore di restare in casa mia, non vi parlerò mai più della vostra futura pigione. Benissimo. Ma voi siete ricco, mio caro Monsieur Bonacieux? Sto bene, signore. È la parola giusta. Ho messo da parte un 2 o 3.000 scudi di rendita, sicché voi capite, signor... esclamò il borghese, in strada, di fronte alle vostre finestre, nel vano di quella porta, un uomo avvolto in un mantello. E lui! Esclamarono insieme D'Artagnan e il borghese. Tutti e due avevano riconosciuto contemporaneamente il proprio uomo. «A stavolta!» gridò D'Artagnan balzando sulla sua spada. «Stavolta non mi sfuggirà!» In capo a una mezz'ora D'Artagnan rincasò. Anche stavolta gli era sfuggito il suo uomo, scomparso come per incanto. Mentre D'Artagnan percorreva le strade e bussava alle porte, Aramis aveva raggiunto gli altri due compagni, sicché, tornando a casa, il giovane trovò la riunione al gran completo. «Ebbene!» chiesero in coro i tre moschettieri, vedendolo entrare con la fronte sudata e la faccia stravolta dalla collera. «Ebbene!» esclamò D'Artagnan buttando la spada sul letto. «Quell'uomo deve essere il diavolo in persona. È svanito come un fantasma, come un'ombra, come uno spettro. Credete alle apparizioni?» chiese Athos a Porthos. Io non credo che in quello che vedo, e siccome non ho mai avuto apparizioni, non ci credo. La Bibbia, disse Aramis, ci impone di credere. In ogni caso, uomo o diavolo, corpo o ombra, illusione o realtà, costui è nato per la mia dannazione, perché la sua fuga ci fa fallire uno splendido affare, signori, un affare nel quale c'erano da guadagnare 100 pistole e forse più. «E come?» dissero insieme Porthos e Aramis. «Planchet!» disse D'Artagnan al servitore che in quel momento infilava la testa dalla porta socchiusa per tentare di sorprendere qualche brandello della conversazione. «Scendi dal padrone di casa, Monsieur Bonacieux, e digli di mandarci una mezza dozzina di bottiglie di vino di Beaugency. È quello che preferisco.» «Questa poi... Il vostro padron di casa vi fa credito?» chiese Porthos. «Sì», rispose D'Artagnan, «a partire da oggi. E state tranquillo, se il suo vino è cattivo, gliene manderemo a chiedere dell'altro.» D'Artagnan riferì parola per parola agli amici quel che era accaduto fra lui e il suo visitatore e come il rapitore della moglie del degno padrone di casa fosse il medesimo con cui lui aveva attaccato briga alla locanda del Franc Meunier. «Il vostro non è un cattivo affare», disse Athos dopo aver assaggiato il vino da conoscitore e fatto cenno con il capo che lo trovava buono. «E si potranno spillare a questo brav'uomo 50 o 60 pistole. Adesso resta da sapere se per 50 o 60 pistole vale la pena di rischiare 4 teste.» «Ma badate», saltò su D'Artagnan, «che in questa storia c'è una donna rapita, una donna che certo viene minacciata, forse torturata, e tutto ciò perché è fedele alla sua padrona.» «Calma, D'Artagnan, calma», disse Aramis, «vi riscaldate un po' troppo, a mio parere, per la sorte di Madame Bonacieux. La donna è stata creata per la nostra rovina e da lei vengono tutti i nostri mali.» A quella sentenza di Aramis Athos aggrottò le sopracciglia e si morse le labbra. «Non è di Madame Bonacieux che mi preoccupo», esclamò D'Artagnan, «ma della regina, che il re abbandona, che il cardinale perseguita e che vede cadere una dopo l'altra tutte le teste dei suoi amici. E perché lei ama quello che noi odiamo sopra ogni cosa, gli spagnoli e gli inglesi? La Spagna è la sua patria», rispose D'Artagnan, «ed è naturalissimo che ami gli spagnoli, che sono figli della sua stessa terra. Quanto al secondo rimprovero, ho sentito dire che l'amava non gli inglesi, ma un inglese». «Signori», intervenne Aramis, «state a sentire. Ieri mi trovavo in casa di un dotto teologo che qualche volta consulto per i miei studi». Athos sorrise. «Abita in un quartiere deserto», continuò Aramis. «Lo esigono i suoi gusti e la sua professione. Bene, proprio mentre stavo uscendo da casa sua», e qui Aramis si interruppe, e parve fare uno sforzo su se stesso, come chi navigando in pieno nella menzogna si veda fermato da qualche ostacolo improvviso, ma gli occhi dei tre compagni erano fissi su di lui, gli orecchi erano tesi, non c'era mezzo di indietreggiare. «Quel dottore ha una nipote», continuò Aramis. «Ah, ha una nipote», interruppe Porthos. «Una dama rispettabilissima», disse Aramis. Gli altri tre scoppiarono a ridere. «Questa nipote viene qualche volta», riprese Aramis, «a trovare lo zio. Ieri dunque era lì per caso, mentre c'ero anch'io, e dovetti offrirmi di accompagnarla alla carrozza». «Così ha una carrozza la nipote del dottore», lo interruppe Porthos, che tra i vari difetti aveva quello di una lingua troppo lunga. «Buona conoscenza, caro mio». «Porthos», lo rimbeccò Aramis, «vi ho fatto già osservare più di una volta che siete molto indiscreto, e questo vi nuoce con le donne». «Signori, signori», esclamò D'Artagnan, che intravedeva il fondo dell'avventura, «la cosa è seria. Cerchiamo di non scherzare, potendo. Avanti, Aramis, avanti». A un tratto, un tipo alto, bruno, con fare da gentiluomo, «ecco, tipo il vostro, D'Artagnan». «Forse era lo stesso», disse questi. «Può essere», continuò Aramis. «Si avvicinò a me, accompagnato da 5 o 6 uomini che lo seguivano a una decina di passi, e in tono quanto mai cortese, «Signor Duca», mi disse, «e voi, signora», continuò rivolgendosi alla dama che mi dava il braccio, «alla nipote del dottore». «Ma silenzio, Porthos, siete insopportabile», disse Athos. «Vogliate salire in questa carrozza e senza tentare la minima resistenza, senza il minimo chiasso? Vi aveva scambiato per Buckingham», esclamò D'Artagnan. «Credo», confermò Aramis. «Ma la dama?» chiese Porthos. «L'aveva scambiata per la regina», disse D'Artagnan. «Esatto», rispose Aramis. «Il guascone è un demonio», esclamò Athos. «Nulla gli sfugge, veramente», aggiunse Porthos. «Aramis ha la stessa statura e qualcosa nel portamento del bel duca, però mi pare che l'abito da moschettiere aveva il mantello molto largo». «Al mese di luglio, diavolo», commentò Porthos. «Il dottore teme forse che tu venga riconosciuto?» «Posso capire che la spia si sia lasciata ingannare dal portamento, ma la faccia...» «Aveva un grande cappello», disse Aramis. «Oh, Dio mio, esclamò Porthos. Quante precauzioni per studiare teologia! Signori, signori, intervenne D'Artagnan, non perdiamo il tempo a scherzare. Sguinzagliamoci di qua e di là e cerchiamo la moglie del merciaio. È la chiave dell'intrigo.